Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi. Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Unione Europea, ha fatto oggi un'offerta dell'ultimo minuto ad Atena per giungere ad un accordo entro la mezzanotte di oggi, quando, lo ricordo, scade il piano di aiuti. La Commissione ha indicato ai greci che metterà a disposizione tutte le risorse disponibili per sostenere la crescita economica. In queste ore è emerso un ripensamento di Tsipras, che starebbe valutando la proposta, spinto da alcuni membri dell'esecutivo mossi dai disagi per la popolazione legati alla chiusura delle banche e dall'avvicinarsi della scadenza del piano d'aiuti. Ma poco fa il ministro delle finanze ellenico Varoufakis ha ribadito che oggi, cioè questa sera, la Grecia comunque non pagherà la rata da 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale. Tasso di disoccupazione all'11,1% a maggio nella zona euro, stabile rispetto al mese precedente, in calo rispetto al 2014 quando era all'11,6. Si tratta del tasso più basso registrato nell'Eurozona da marzo del 2012, così Eurostat. Nell'Unione Europea 28 è a 9,6%. Anche in Italia il tasso di disoccupazione resta stabile rispetto al mese precedente, al 12,4%. Dopo una maratona negoziale notturna c'è finalmente l'accordo UE per l'abolizione del roaming a partire da metà giugno del 2017, con un taglio dei costi già dalla fine aprile 2016. Vediamo i punti di questa intesa nel nostro servizio. Risparmi in vista per le telefonate dei cittadini europei. A tarda notte, dopo ore di discussioni, l'Europa è riuscita a trovare un accordo preliminare in vista dell'eliminazione definitiva del roaming e dei suoi costi generati sulla telefonia mobile. L'accordo dovrebbe entrare in vigore entro il mese di giugno del 2017 nell'insieme dei 28 Paesi membri. La decisione tocca le tasche di chi si sposta in Europa, secondo Francesco Sacco, docente di strategia aziendale in Bocconi, componente del tavolo permanente per l'innovazione del governo italiano. Oggi quando si va all'estero, non dico tanto per i costi delle telefonate che si sono molto abbassati, ma quanto per i costi della connessione, per chi è spesso all'estero i risparmi sono notevoli, parliamo non di un euro o due, ma di decine e decine di euro. In un arco più spalmato di tempo, enorme. L'Europa raccomanda anche agli operatori di telecomunicazioni di trattare su una base univoca il traffico su internet e di proibire il blocco degli accessi, salvo che per contrastare i cyberattacchi. Dal punto di vista del cittadino, avere la certezza che i suoi dati verranno trattati come i dati di tutti gli altri, che è un fatto di democrazia, un fatto di inclusione. Non ci deve essere una internet a due velocità in cui la velocità dipende dal portafoglio. Raggiunto quindi anche l'obiettivo di tutelare la net neutrality sotto la guida nell'ultimo giorno della presidenza lettone dell'Unione Europea, la definizione dei dettagli tecnici alle prossime settimane sotto la nuova presidenza lussemburghese che raccoglie il testimone dal 1 luglio. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di fondi europei e di TAV. Più volte data per persa, la TAV risorge grazie ai fondi europei. La Commissione di Bruxelles assegna 13,1 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture strategiche per i trasporti, in totale 15 progetti, ma i due chiave sono il Brennero, fino a 1,2 miliardi di fondi UE da dividere con l'Austria, e la TAV per la realizzazione del tunnel di base di Moncenisio, fino a un massimo di 813 milioni da dividere con la Francia. C'è poi il potenziamento della Chiasso Milano, il rafforzamento del collegamento ferroviario di Malpensa, soluzioni ambientali per il porto di Genova. Su 700 progetti candidati, selezionati 276, l'Italia è terza dopo Francia e Germania per risorse assegnate. Per Matteo Renzi il riconoscimento ricevuto è il segno della determinazione del buon lavoro fatto e significa più investimenti europei. In questo modo, sottolinea il ministro dei trasporti Graziano Del Rio, il sistema logistico italiano verrà potenziato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 14 6 minuti 25 secondi è tutto per Europa 24. Vi saluta qui Daniele Biacchesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.